Letture di Radio 24. La relazione dell'Europol del giugno 2013 stima in 3.600 il numero delle organizzazioni criminali internazionali operanti nell'Unione Europea, scrive Roberto Galullo nel suo ultimo libro dedicato alle mafie. Il volume di affari è stimato attorno ai 110 miliardi di euro l'anno, un fatturato che rappresenta l'1% del PIL dell'Unione Europea. I mercati più produttivi sono quelli del traffico di stupefacenti e della tratta di migranti, mentre il riciclaggio di denaro sporco da investire in economia pulita avviene soprattutto attraverso bar, ristoranti e discoteche. E non mancano nemmeno i forni abusivi, circa 1.500, sparsi tra Napoli e provincia. L'80% del prodotto abusivo viene venduto in strada. Il resto finisce nei supermercati e nei ristoranti. Da ottobre 2013 a marzo 2014, le forze dell'ordine hanno sequestrato nella sola provincia di Napoli complessivamente un centinaio di forni, 14.000 kg di pane e 1.300 kg di farina e denunciato 130 persone. Nei forni ci finisce di tutto: legna tossica, nociva, macabra, funeraria. Nella patria de Alivella, scrive Peppe Ruggero nel rapporto Legambiente 2013, anche da morti non si può star tranquilli. Quello che tutti sussurravano e che sembrava una diceria popolare è diventato oggetto di varie inchieste della Procura di Napoli. Le bare mezze marce delle esumazioni del cimitero di Poggio Reale vengono triturate e smaltite in modo illegale, attraverso un circuito criminale, vendute come legna da ardere per i forni che cuociono il pane della camorra. Qualcosa di agghiacciante che a Napoli diventa normalità. Il pane della camorra lo si può trovare per strade in qualsiasi sabato e domenica dell'anno. Viene venduto sui cofani delle macchine per le strade di Marianella, Scampia, Marano, Afragola, Portici, San Giorgio o in tanti banchetti che una volta venivano utilizzati per vendere le sigarette di contrabbando lungo le strade dell'area nord di Napoli. Ha un sapore particolare e costa meno perché viene prodotto fuori da qualunque regola. Senza igiene, senza alcun controllo su acqua e farina. E per cuocerlo non solo bare, anche vecchi infissi, cortecce di nocciole trattate come antiparassitari, legni di vecchie scenografie di teatro verniciate con solventi altamente tossici. Per un forno sequestrato ce ne sono già 10 pronti ad accendersi. Basta poco, un garage o un sotterraneo, oppure un piccolo magazzino, un forno, delle pale e soprattutto l'autorizzazione del clan che comanda. Senza la sua licenza amministrativa non c'è mercato. È il clan che sceglie la farina, i supermercati dove vendere, le botteghe alle quali rivolgersi. E chi se ne frega se tra i panetti in lievitazione puoi trovare di tutto. Si impasta tra cani randagi e topi di tutte le taglie, tra escrementi di varia origine. E le capitali del pane in flagranza di reato, ricorda Ruggero, sono sempre le stesse: Afragola, Casoria, Giuliano, Lettere, Qualiano, Pianura, Secondigliano. Quelle dove i ras del pane nero sono i soliti clan. Vale a dire Moccia, Di Lauro, Russo, Mallardo e Ascione. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Roberto Galullo, Finanza criminale, soldi, investimenti e mercati della mafia e della criminalità in Italia e all'estero. Il Sole 24 Ore Editore, 286 pagine, 8,90 euro. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Letture di Radio 24. La Corte Suprema dell'Arabia Saudita ha confermato la condanna al blogger Raif Badawi in carcere dal 2012 per aver osato esprimere idee liberali. 1.000 frustate, 50 alla settimana da eseguirsi pubblicamente come nel Medioevo, oltre a 10 anni di carcere e una multa di $270.000. a nulla è servita la mobilitazione nazionale lanciata da Amnesty International per cercare di salvarlo. Ma cosa ha scritto questo 31enne che nel regno campione mondiale di condanne a morte paga più degli assassini? In uno degli ultimi articoli postati poche settimane prima di essere arrestato, il 17 giugno 2012, Raif Badawi ragiona dell'ostilità avvertita tra i connazionali. «Il liberalismo, per me, significa semplicemente vivere e lascia vivere. Ma l'Arabia Saudita, che rivendica l'esclusivo monopolio della verità, è riuscita a discreditarlo agli occhi del popolo. Poi ancora, nessuna religione ha mai avuto alcuna connessione con il progresso civile dell'umanità. Non è colpa della religione, ma del fatto che tutte le religioni rappresentano una precisa particolare relazione spirituale tra l'individuo e il creatore». In queste ore in cui la gente si prepara allo spettacolo dell'empio frustato in piazza come ai tempi del rogo di Giordano Bruno, suo padre si è presentato in TV non per difenderlo, ma per annunciare di volerlo diseredare. Nel blog di Raif Badawi si trova tutto il tormento dei giovani liberali arabi contemporanei. Il Dio indiscutibile per cui sconta una pena disumana, ma anche la questione palestinese. «Non sono in favore dell'occupazione israeliana di nessun paese arabo», scrive Raif, «ma allo stesso tempo non voglio che Israele sia sostituito da uno stato religioso. Gli stati che sono basati sulla religione relegano i propri sudditi nel recinto di fede paura. Gli attentati dell'11 settembre 2001, alla luce della proposta di costruire una moschea nei pressi delle ex Torri Gemelle. Quello che mi ferisce di più come abitante dell'area che esporta questi terroristi», scrive Raif, «è l'audacia dei musulmani di New York, che raggiungono i limiti dell'insolenza e non considerano il dolore delle famiglie delle vittime». Il suo nome era sconosciuto al mondo fino a 5 mesi fa. Adesso tutti sanno e lui torna a piegare la schiena sotto i colpi della frusta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Francesca Paci, Carcere e mille frustate. La rabbia non perdona il blogger. Dalla Stampa dell'8 giugno. Lo scorso 5 gennaio, 2 giorni prima di essere ucciso durante l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, il direttore del settimanale satirico, Sharb, aveva consegnato al suo editore 2 pagine che riassumevano il suo pensiero sulla presunta incompatibilità tra Islam e umorismo. Oggi quel testo viene pubblicato in un libro intitolato «Lettera ai truffatori dell'islamofobia che fanno il gioco dei razzisti». E sembra rivolto proprio a tutti quelli che, passata la commozione per le vittime, si sono affrettati a dire che i vignettisti di Charlie Hebdo, in fondo, se l'erano meritata, perché avevano offeso una religione ed erano, appunto, islamofobi. Charb ha avanzato un argomento anch'esso formidabile, che se si fosse più attenti alla logica e non agli spettri dell'islamofobia, potrebbe essere preso utilmente in considerazione da chi si ostina a ragionare. Scriveva: «In virtù di quale contorta teoria l'umorismo dovrebbe essere meno compatibile con l'Islam rispetto a qualunque altra religione? E ancora, se lasciamo intendere che si possa ridere di tutto tranne che di certi aspetti dell'Islam, perché i musulmani sono molto più suscettibili del resto della popolazione, non li stiamo forse discriminando? E in effetti l'idea che l'Islam è incompatibile con l'umorismo, oltre a essere un'ottima battuta umoristica e dunque nel mirino di chi ammazza la gente con la scusa della blasfemia, ha qualcosa di discriminatorio. Puoi dire tutto e a tutti, ma non a quei poverini che si offendono per un niente. Devi usare misure diverse, come se avessi a che fare con un portatore di handicap. Pensi che una vignetta, che può fare infuriare anche i seguaci di altre religioni, possa essere inopportuna per chi, poveretto, non ha strutturalmente la capacità di afferrare il contenuto umoristico di una vignetta, come condannare una religione intera a una classe differenziale, perché è totalmente impermeabile al senso dell'umorismo. Più discriminazione di questa?» Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'editoriale di Pierluigi Battista, La grande bufala dell'islamofobia, dal Corriere della Sera dell'8 giugno. quelli che ancora sognavano l'esistenza di un Islam moderato in grado di avere la meglio un giorno su quello radicale, sono stati riportati alla triste realtà dopo la diffusione dei risultati di un sondaggio lanciato nelle scorse settimane dalla popolare TV araba Al Jazeera, che aveva chiesto ai propri spettatori: siete favorevoli alle conquiste dello Stato islamico in Iraq e in Siria? L'81% di quelli che hanno risposto si è dichiarato favorevole all'ISIS. E così crolla quel mondo islamico immaginario che gli occidentali si sono inventati per autorassicurarsi, scrive Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul magazine 7. Panebianco prova poi a spiegare i motivi della popolarità dell'ISIS. Ci sono tre ragioni che spiegano le estese simpatie arabo-sunnite per l'estremismo. La prima è culturale, ideologica. Riguarda la grande diffusione delle interpretazioni fondamentaliste dell'Islam. La seconda ragione ha a che fare con la natura dei regimi politici prevalenti nel mondo musulmano. Sono quasi tutti varianti dell'autoritarismo. In quanto tali, non addestrano a distinguere fra regimi di libertà e regimi di oppressione. Non insegnano a provare ostilità per chi opprime la libertà altrui e lo fa per giunta con ferocia. La terza ragione ha a che fare con il risentimento verso gli occidentali. Tanti arabi sunniti sono ostili agli occidentali, cui imputano tutte le loro disgrazie. Viene apprezzato chiunque dia mostra di saper tener testa ai crociati. E anche a causa di questa popolarità diffusa, oltre che al fine di contrastare gli sciiti, che le potenze sunnite, dalla Turchia all'Arabia Saudita, hanno di fatto favorito la nascita dello Stato islamico e non fanno nulla per fermarlo. Faremo bene a occuparci del mondo islamico che c'è, anziché di quello inventato da noi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'editoriale di Angelo Panebianco, quell'81% di arabi pro-ISIS e l'Islam dei sogni, dal magazine 7 del 5 giugno. De Luca, l'impresentabile della Campania, si è presentato ai nuovi sudditi con l'annuncio pirotecnico di un mega condono. 80.000 immobili abusivi, praticamente una città. 80.000 catapecchie cresciute in barba alle leggi che, grazie al pagamento di una sanatoria, diventeranno per magia dei castelli incantati. Se gli obbrobri edilizi esistono e abbatterli tutti è impossibile, allora tanto vale metterli in regola, a esclusione di quelli costruiti in luoghi protetti o che appartengono a chi già possiede un altro immobile. L'impresentabile lo chiama pragmatismo. Totò gli risponderebbe: ma rifaccia il piacere! Il condono sanerà case precarie e improvvisamente, senza lacci né protezioni, e anche il più scalcinato dei camorristi potrà intestarle a un prestanome ed eludere così il risibile divieto deluchista. Tanto, al sopraggiungere della prima frana che seppellirà gli abusi condonati, De Luca guiderà l'immancabile corteo di piagnoni che lamenteranno la solitudine del sud e la mancata tutela del territorio. Il Partito Democratico era nato per difendere le ragioni dell'ambiente e il rispetto delle regole. Nella nuova versione pratica e maneggevole, il Partito Delucratico pare invece deciso a sostituire i cittadini in regola con i costruttori abusivi. Non c'è dubbio che questa scelta gli abbia portato molti voti e che vincere le elezioni sia meglio che perderle. Se però per vincerle devi diventare qualcos'altro e quel qualcos'altro ti fa anche un po' schifo, è il grande dilemma del renzismo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Gramellini, Il mal de Lucato, dalla Stampa del 9 giugno. Lo scorso 26 marzo il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che contiene alcune disposizioni sugli sprechi alimentari. Una normativa che in Italia ha suscitato grandi entusiasmi, mentre in Francia ha sollevato qualche polemica, dato che i provvedimenti riguardano solo la grande distribuzione, mentre le principali fonti di spreco sono i nuclei familiari. La nuova normativa vieta ai negozi di oltre 400 metri quadrati di distruggere prodotti alimentari ancora consumabili e impone di consegnarli in priorità ad associazioni caritative. I prodotti non più consumabili dovranno essere utilizzati per l'alimentazione animale e infine per la valorizzazione energetica, ovvero compost per l'agricoltura e la metanizzazione. La legge inoltre mantiene le attuali defiscalizzazioni delle donazioni alimentari, ma le condiziona alla conclusione di accordi con le associazioni caritative. Essa vieta anche l'applicazione della data limite per l'utilizzo ottimale a una serie di prodotti, aceto, sale da cucina, zucchero allo stato solido, gomma da masticare, zuccheri aromatizzati o colorati, vini e bevande alcoliche di almeno 10 gradi, frutta e verdura fresca non preparata, prodotti di panetteria e pasticceria normalmente consumati entro 24 ore. Infine, i distributori non possono più opporsi per via contrattuale alle donazioni di prodotti di marca commerciale effettuate dai produttori. Le pratiche di distruzione dei beni alimentari prima della loro scadenza sono pesantemente sanzionate fino a 2 anni di prigione, mentre multe più leggere sono previste in assenza di proposte di accordi per donazioni alle associazioni caritative. La nuova normativa ha suscitato qualche perplessità sulla stampa professionale in Francia e sembra aver sollevato qualche commento eccessivamente entusiastico su quella italiana. Ci si può domandare infatti quale sarà l'impatto reale sugli sprechi alimentari di questi 2 articoli che impongono unicamente regole e sanzioni alla grande distribuzione. È stato osservato che, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, le principali fonti di spreco alimentare sono i nuclei familiari, seguiti dalla ristorazione collettiva e dalla grande distribuzione organizzata. Le pratiche di distruzione dei prodotti prima della data di scadenza non sembrano poi essere particolarmente diffuse nella grande distribuzione, la quale ha piuttosto interesse a smaltire i suoi invenduti prima della scadenza tramite le promozioni. Queste ultime sono tra l'altro aumentate notevolmente negli ultimi anni, riuscendo a comprendere anche prodotti di forma atipica, la frutta e verdura MOSH, ossia brutta ma buona. Ormai da alcuni anni la grande distribuzione francese ha introdotto buone pratiche aziendali per smaltire gli invenduti. Per ragioni anche di immagine, le grandi catene sviluppano e pubblicizzano iniziative innovative antispreco, che coinvolgono talora anche i produttori e i consumatori. Va osservato infine che una parte dei prodotti divenuti non consumabili dovranno continuare ad essere distrutti per ragioni sanitarie. Insomma, con un certo opportunismo, il Parlamento ha fatto proprie alcune fra le migliori pratiche dei grandi distributori per estenderne l'obbligo a tutto il settore. Certo, la legge non è del tutto inutile. Farà cessare la distruzione di una parte degli invenduti ancora commestibili, praticata occasionalmente da alcuni negozi, e soprattutto favorirà il loro recupero per l'alimentazione animale e la valorizzazione energetica. Il dubbio è che non potrà determinare grandi mutamenti in questo settore, già all'avanguardia, e quindi la riduzione degli sprechi attuali sarà minima. Senza contare che la legge potrebbe avere un effetto perverso dal punto di vista delle associazioni caritative. C'è infatti il rischio che, imponendo controlli e sanzioni nei rapporti con loro, la normativa inciti le aziende a ridurre ulteriormente gli invenduti tramite le promozioni, diminuendo così la quota di prodotti che potrebbe essere donata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Colla "In Francia arriva la legge antispreco", pubblicato il 3 giugno sul sito Tendenze Online.